sincero, perché io non ci vedo già a farla, se non gliel'avrei fatta, avrei comprato lo spiralato, gliel'avrei fatta per non disturbare un amico preferito, ordinarglielo e regalarglielo io. Non succede niente, va bene così. E poi si è interrotta metà, che la poco puoi fare. Sì, che è interrotta la fine o all'inizio, va bene, ma quando è interrotta metà puoi fare molto poco. Non lo so, già non arriva l'alimentazione, dalla radio esce, capito? Col connettore attaccato uno nella radio, gli 8 volti, però non arrivano al coso, all'altro connettore del microfono, quindi mi sono veramente rotto. Vabbè. Comunque gliel'ho preso nuovo, originale, spiralato, insomma, non succede niente, non me ne apposta. Vai Massimo. Gaffa gaffa, quello là invece sempre ce l'hai, sì. Vale, però beh. Quello l'altro 14. L'altro 14? Sì, cioè, sto usando questo qua, sto usando quello di Valerio adesso. Ok, va bene adesso. Sì, poco fa stavo usando quello che ho ritirato da Pinuccio, che è nuovo come questo, Vabbè, sono tutte e due in buonissime condizioni, nuovo. Però, vabbè, c'ho 2060, quindi comodo, Adesso questo è quello di Valerio. Adesso cambio e metto l'altro. Aspetta, mollo, l'importante è qua. Questa è antenna 3, antenna 2. Antenna 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Antenna 1, no, qua siamo a antenna 4. Questo invece è l'altro, quello che mi ha portato Pinocchio. Sì, sono uguali, no? Non cambia niente, sono tutti e due perfetti. No, ma assolutamente. Quello che prepara è il 430 perché spinge un po' di più. E beh, ma troppo avanti. Sì, aspetta un secondo, tolgo questo microfono qui e metto nel mio più 4, vediamo come esce. 2 minuti. Aspetta 2 secondi, attacco questo, cioè stacco uno e attacco l'altro. Cosa stai usando adesso, Ali? Adesso, dimmelo tu cosa sto usando, va, vediamo se indovini. È stato un ecco. Stai sbagliando parecchio, questo è come il 4000. Il Saturneco ce l'ha, già lo sai che ce l'ha. Se vuoi telefonargli non è problema. Aspetta un attimo che ti attacco il microfono amplificato, l'MB più 4, 2 secondi. Chiara anche questa la radio. È bella anche questa, è bella, bellissima. Cazzo, pagando le radio, il Saturneco a Carlo non è più entrato. Boh, ora si è incendiato. Allora io riprendo perché ha ripreso un rumore fastidioso e me ne scendo anche un po' giù, là. Mi stacco un po' dalla radio, ok? Dai, vi saluto a tutti cordialmente e ci sentiamo alle prossime, là. Ciao! Ciao Massimiliano, ci sentiamo, dai, con la carica quando la fai, avanti qua. Ciao Massimiliano, beh, normale, te l'ho detto che è un inverter quello. A quest'ora sta facendo freddo, ho attaccato la pompa anch'io, quindi sicuramente è una pompa di calore. Ciao, a presto, saluti a casa. Ciao, nel prossimo ci sentiamo. Adesso questo qua in pratica è l'MB più 4 con il 4000. Va bene. Ma chi vai lei quello con il 4000? Perché non lo sapevi. Ah, secondo te? Io non mi ricordavo che tu sapevi che con il 4000 è uguale a Saturneco, preciso, manca solo il frequenzimetro. Ti giuro Antonio che non lo sapevo, assolutamente non lo sapevo, tu già me lo sapevi. Sì, io sapevo che ce l'avevo, l'ho usato altre volte, però la modulazione è meno male, è come quella di Saturneco, per quello lo confondo. No, è diversa questa qui del Saturneco come originale. Hai capito? Questo è totalmente diverso. Questo è fatto la stessa cosa del Saturneco normale. Quindi sono due apparati uguali, modificati, con lo stesso ecco, eccetera, eccetera. Non ce n'è assassi, non ce n'è nessun altro, quindi lo riconosco. Se me lo rubano, tranquillo che l'ecco lo riconosco subito. E che te lo ruba, se ce l'è a casa. Cosa ne sai tu? Lo metti in macchina, uno esce Zapata non sa neanche che c'è l'eco, ma è tutto, perché c'ha là il frontalino come del in pratica del aspetta, te lo dico subito, 2009, in pratica, frontalino agentato. E come sono io? Appunto per quello, quindi uno e l'altro sono uguali, sono precisi, non cambia nulla, sono fatti precisamente uguali, non cambia niente. No, non è che sapevo che ce l'avevi il Comex 4000, però non sapevo che era uguale al Saturneco Antonio, capito? Non sapevo quello. Vabbè, comunque ci bene, c'è problema. Ragazzi, io vi saluto, devo andare a fare cose in cucina, ok? Ciao Gianni, ciao Antonello e chiunque fosse in ascolto su 10. Ciao ciao, vai già. Ehi, vi saluto anch'io, dai, buona carica, ci sentiamo, vado anch'io a portare giù il cane, giù che è già tardi, dai. Ci sentiamo, Comunque questo qui è l'Intec, se lo vuoi sapere Antonio. Sì, vabbè, ok, ho capito, 50 euro voi, non c'è problema. Già te lo guardo, ogni atti da passa, vedi, te lo prendi. Ah, se mi sento. Stavo scherzando. Vabbè, tanto un po' di soldi, io problemi non ne ho. La pizza! C'ho la capita, sta carbonizzando. Vabbè. Niente, è bruciato. Sentito, quindi allora al limite mi ha posto la pizza, mi c'è, in 50 euro mi compri casa e fornetto, va bene lo stesso. Vabbè, adesso vado a togliere la pizza, ci sentiamo dopo, là, perché ha fatto poco. Ciao, ciao, ci sentiamo. Vabbè, domani ti porto 50 euro e mi dai il garage. Sì, va bene, ok, d'accordo. Quando vuoi tu, non c'è problema. Il resto. Ciao. Buona mangiata. Ciao. Attenzione 10. Ne apri il vaccino. Sto diavolo. Vabbè, come va? E chi c'ha scelto la colombe? Ma cosa stai usando? L'antenna piccola? Sto usando la piccola, non lo sai. Passivo lungo. 9 sei qua. Cappa. E io come arrivo lì da quelle parti? Prova un po'. 9-3 prova. 9-20. Aspetta un secondo, ti faccio un passaggio con la tantenna, 2 minuti, vado a fa. Girato hai, prova Antonè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, guarda un po' come va. È avanti a Suria. Hai visto? L'altra era. L'antenna lunga. Quella fatta in plastica e questa invece è la manca va. È sempre un'altra storia. È un po' di più, molto molto di più. Va bene, dai, io ti lascio, vado a farmi la doccia, ci sentiamo dopo. Appompa il microfono adesso. Adesso sì. E adesso è lui. Ok, meglio così, sono contento. Ora, 1, 2, 3, ora. È bello. Cattariao. Beh, e allora? Ora. Aspetta un attimo, arrivo su. Ehi, fai. Ciucchicciù. E beh, dove? E beh, come va? Bene. Uia. Sono un bordello. Dimmi. Un po' di travaglienti. Allora. Uia. Ciao, va bene, ha voglia. Sei a posto. Ciao, su non è... Non l'ho acceso su oggi. Vabbè, meglio così. Azione 2. basso. Forse perché è più bassa, comunque con quella là c'è parecchia differenza, secondo me. Già lo so, non ti preoccupare per quello. Me ne sono accorto. Anch'io da uno al lato di apparecchio e poi si attorna, ecco, una bella differenza c'è, la verità. Ma insomma, scappa, c'è una bella differenza. Credo che ha piovuto, non gli ha fatto, cioè le stazionarie sono basse. Che esci bene a voglia, ma ci mancherebbe. Gabba. Ehi Luca, meglio mi senti stasera? Ho cambiato il cavo. Sì, allora aspetta un attimo, sì, sento bene, aspetta. Gabba, vai. Mi sa un po' un'altra storia. Che duro che prende, ora. Attenta allora, Gurri. Attenta al lupo. Ma chi è quello lì, Anto? A tu Luca, stamattina tu dice, ma sono a te mezzogiorno? No. L'ho visto due volte qua, l'ho visto. Fuggire. Da consolato, cazzo. È sparito, cazzo. Antone, non sono appunto qui e perché ho appuntamento a mezzogiorno e mezza. Mi hanno chiamato all'una, sono andato via alle 2:10 da lì quasi. Capito? Era troppo tardi. E vabbè, mi chiamava, scusa, al telefonino. Io ero giù, la verità, a mezzogiorno. Quindi, ma stava chiamando al telefonino, vabbè, fa come vuoi. Non c'è problema. Non è successo niente, non ti preoccupare, fregate. Ah, io sto in fesia. Ma sento che mi hai detto, qui ci vediamo a mezzogiorno, mi hai detto, ragazzi, fate fare, mi raccomando, non fare, che cazzo sei stato tu, che ti sei incapitato da solo, il discorso è quello. Ma te l'ho spiegato, io do appuntamento a mezzogiorno e mezza, sono arrivato giusto, mi hanno chiamato fino a quasi l'una, 9:10 mi sa, sono andato via alle 9:10, le 9:20, ora. Una commessa che va nella bitorra. E vabbè, piccato, capito? Perché ha detto Giovanni, ha detto guarda, ti vedi Luca, ha detto fa poco, alla una, ha detto rimane un pochettino qua, io ho detto poi aspettiamo, all'1:15. Questa è 1:30, ha detto non sei venuta, ho detto guarda, questo mi ha preso un po' di fondiglia, ha detto questo è il torto. Ma è un chiappetto, ha detto, appena lo vedo è un chiappetto. Che cazzo di chiappetto? Cosa devo fare? Mi dice l'appuntamento, ci vediamo io a te a mezzogiorno. Faccio mezzogiorno e mezzo, abbiamo una cosa per dire, al bar, dopodiché sparisce. Cosa devo fare? Vabbè, dai, può succedere che... Ma facciamo allo, Burudu, è bello, grazie e bene. Infatti, vabbè, te l'hai sempre buttato da parte mia, Pompo. Ma già, chiamalo io. Lui doveva chiamare a me, no, non io. Diceva, guarda, Antonio, non posso venire, non c'è problema. Vabbè, ci vediamo. Quello che no. Non è che tocca a me, no. Vabbè, ma il problema... Ma guarda, ma so che dimenticato. Fai che mi sia dimenticato, avanti. Come la mettiamo? Ci mettiamo qui tu, ma poi la porta non ce la facciamo neanche, era già tardi. Vabbè, io bevo Mirto comunque. Vabbè, se coccoma lo stesso comunque sia. Bevi Mirto quello che vuoi. Non c'è problema, già lo sai. Ci avevo i soldi per... Invece per te, se sei in Mirto, guarda, l'ho so bevuto io stamattina. Allora con Antonio per stare la tenda. Il Mirto, mamma mia, una voce hanno giovito. Ne ho bevuto mezza bottiglia, che ho cominciato a pisciare, mamma mia, non ne avveniva più, perché è dolce. Sicuramente mi ha causato qualche scompenso. Regare Ghisio, avanti, chi è Antone? Boh, cosa ne so io? Sento qualcuno sotto, ne ha tanto. Ora. Ma torno a vendere, vai. Logico, acqua è acqua. peggiava a quello. Vabbè, adesso me ne vado andando, mangiatevi, ci sentiamo domani mattina, va? D'accordo, se volete ci vediamo, basta chiamare al telefonino, non c'è nessun problema, ci vediamo al bar. Gabba gabba, passa qualche sera, gatta, da qualche parte, ragazzi, che ce la beviamo. Vieni sabato in via Sardegna, buon po'. Ci vieni sabato, in via Sardegna c'è anche Antonio, ci vieni, io. Alle 9:30 siamo lì, anche prima. In via Sardegna da chi? Da quella ragazza che conosco io. Via Sardegna, vai a Guardia America, più giù, c'è un circolo lì, vieni lì. Ah, passava al bar, stavi dicendo tu. Vabbè, se ci passo non c'è problema, il problema è all'alzata, il discorso bisogna che salga a piedi a un certo punto. Vabbè, va. Se devi trovare una birrellata. A farlo scendere con me, a Fabrizio. Qui ci andiamo assieme e ci ripetiamo. Ehi, ma adesso prendo un computer, un telefono. Questa è un altro attimo, capite? Il computer ora che l'ha fallato, non funziona più. Cazzo, ma via un coso impallato, sciamane. Il telefonino, lo sai. Deve essere che l'ha sciocchittato un poco. A parlare con te. È collegato in internet, è uscito di gabbo. Ma lì non passa, va. Faccia vedere. Che cazzo ha pigliato? Faccia vedere. Ah, ecco. Scamata nera. Guarda, ma faccio qualche cd dentro, aspetta. Gabba. Gloria. Vada, piano piano. Si ma piglia che cosa? La Baidendi era un mercatino, la Baidendi, hai visto? Sì, vabbè, mercatino, oh ia ia. C'è tutto il più adesso. Vabbè, ci sentiamo al limite, a domani. Statemi bene. Adesso vado a capo Simona, siamo cazzo bene. Come mi ammazza il cazzo a un certo punto stanotte. Statemi bene, buonanotte a tutti. Dopo il seguimento. Stai andando a schiacciare, no? Ma stai in varia. Mi tocca, no? Io lo sai. Ha detto, se no non schiaccio, mi ci butta fuori di casa, mi ha detto. Quindi... Cazzo, bubù, a tu, via dai, tu no. Come non schiaffi? Schiacciare, schiacciare. Non hai capito, se io non li do a... A secondare, hai capito? Le donne sono stufe di stare a fare un cazzo. E quindi voglio l'aggeggio. Sono uno, soffro. L'aggeggio, eh? Non devo stare a un po' quello di plastica. Hai capito che cos'è l'aggeggio, lo sai anche tu. L'aggeggio è quello di plastica. E cazzo plastica, già dico di coso, di carne. Sono salsiccione di dormi. Aspetta un po' che tu sei andata a comprare la foglia, aspetta. E solo mi metto nel braccio a me, me lo faccio pensare nel braccio. Dopodiché me lo faccio pensare di lì, un metro e mezzo. E io guardi tu. Oh, cosa vedi? Dai, dai, dai. Ehi, la foglia è ordinato. Negativo. Va bene, ma tu hai ordinato la foglia. Aspetta un po' che tu hai ordinato la foglia. La fede, io non ho detto proprio nessuna fede, la verità. Giovanna l'ha ordinata per Giappiero, no, non per me. Anche io per noi. Certo. Ah, perché anche perché l'altra volta Giampiero ha messo due fede, gli ha fatto accuse e l'ha vomitata, non solo l'altro, non solo lui. A parte i panini, ti ha messo male tutti, da Giano, lascia perdere. Con le cipolle vuole mangiare, se la mangi normale ti fa accuse, ha vomiti. Come ci può bere il panino? Il discorso è quello. C'è questo Lenovo, buono, Sì, sì, sì. Comunque, tu stai uscendo veramente bene, di audio. Veramente, veramente bene. E beh, di audio, no, è comprende. Non è più come prima che ci va... Vabbè. Arriverà... fra due mesi anche con me, quindi almeno siamo in coppia. La coppia? E in coppia nel senso che vuoi dormire? Non ha più compreso questa storia, cosa vuol dire questa coppia? Ma la coppia nostra che cosa è? Che mi voglio prendere in pratica che sia il coso 140, quindi a giugno, non adesso. Purtroppo adesso non posso prenderla, purtroppo è così. Ha fatto la rinnovo un po'? Deve dito, sì, l'ha fatto. E va, come dicendo l'ha fatto? Lo so, a giugno il 27 mettiamo i soldi, almeno siamo tranquilli. E poi c'è quest'altra domanda. Hai detto il telegiornale, danno 200 euro a chi percepisce anche il reddito di cittadinanza, non so, però dovete informare. Danno questi 200 euro non so per quanti mesi. No, non è così facile, magari, non è come dici tu, fregate, non è come dici tu, a tutti i dini. A me mi hanno tolto in pratica i 40 euro, quindi adesso d'ora in poi chi ritira il reddito di cittadinanza ritira solamente 100 euro in contanti, dopodiché si attacca a puppa. A Gaies. Esatto, bravo. Certo, vabbè. Mi comandano un buon po', la dentista ha voluto altri 1600 euro. Beh, il dentista te lo paga, vedi, tu in cittadinanza. Basta fare domanda e te lo paga lui. Ma... A meno che non ti investi la bombola per conto tuo, a nome tuo, non fai altro che chiamare Antonio ogni mese e in pratica ti ritiri la bombola a conto di cittadinanza e anche l'affitto. La bombola la puoi comparare. Io ho il POS, basta che mi dici portami la bombola, metti il POS, tanto il digito e cosa c'entra quello? La può comprare chiunque e mi fai soldi, capito? Sì, ma la bombola la posso pagare anche con reddito addirittura, figurati tu. E anche la fitta addirittura, adesso come adesso, quindi se io vengo da te, vabbè, adesso non è che me ne frega niente, ma fosse stato via salvato, sarebbe stata una cosa di... Dirà che conta. Ti avrei chiamato, ti avrei detto, guarda, pagati la bombola, col POS. E sei stato tranquillo, tutto lì. Col prossimo, cosa hai detto? Guarda che noi lo facciamo già, ma ce lo dicono i clienti che vengono, pagano col prossimo, no? Non c'è problema, capito? Ma la bomba la pagano col prossimo, ne prendono anche due. E appunto per quello lo sto dicendo, cioè la bomba in pratica si può pagare col POS, poi anche addirittura l'affitto, come ti posso dire, c'è un sacco di altra roba, vabbè, quello che si può fare in teoria. Beh certo. Ma noi abbiamo diversi clienti così, bene, e bagare e via. Capito? Tanto a spingere l'ago? Ho voglia di spingere. Ma secondo te? No, secondo me c'è come ti dicevo io. Ma non è che sarà pure per quello che è un po'. Magari soffriva l'apparecchio, perché non riusciva a amplificare. Beh, certo che sì. Facendo una favola bella amplificata, fortissimo. Capa, ma comare, là. Carta, riauro, carta. Meno male, ogni tanto faccio qualcosa di buono. Ma non ti preoccupare, cara, da voi già ne fa vedremo. No, già non c'è problema. sei qua, esce quattro temi uguale, sembra che sei, per dire, tu a casa tua e lui a casa sua, cioè in pratica al contrario, fai finta al contrario, uguale, non cambia nulla. Io di questo sono contento, da questo volevo arrivare con Antonio, fa sentire che sta usando un K, perché prima sembrava che stava usando un baracchino, adesso si sente che sta usando un K, e così deve essere. Non avevo dubbi, capito? Non avevo dubbi. Va bene, goditi tutto Antonio, sta uscendo da favola, lascialo così, il processore è inserito, non tocca più nulla. Guarda, c'è l'antenna... L'antenna piccola spinge. Io credo che spinge, alla grande. Ma questa è quella, lo ricombro. Che non fischia niente. Che capo ha cambiato tu? Quello del microfono. Ma tutto? Sì, glielo regalato io, glielo comprato io, glielo regalato io. E come è stata a collegarlo qua? Ma quando arrivo lì con lo ricombro? Insomma, del microfono alla radio. La spinetta. Connettore 8 a ghiera, connettore 8 a ghiera. Ah, capito, visto. Non usciva bene, usciva un po' maluccio. Ma se c'è benissimo. Claudio, poi. Come arrivo con lo ricombro? 9, Santiago 9, con l'altra 9 e 10. Ok, adesso torno con l'altra. Carta, riavolo. Che sto uscendo un bel bene, adesso finalmente è un tributiano, Maria Gattuso Baracchino. Questo televisore lo disturba il mio, no? Buh, che strano. Hola, così va meglio, dai. Cosa? Ho detto, questo qua lavato da niente il televisore, l'ho sistemato, no? È disturbo quando parlo. Questo col mio, no? Buh. Ah, buh, hai chiesto, ma se ne dico è lampante. Lascia verde. Non c'ho anche a vedere, lascia piangere 5 ce lo butto. Cosa sta dicendo? Niente, ho ordinato dalla maschera, che devo ordinare altre roba, siccome ci conosciamo, con il venditore, quindi metto un caffè, ma te lo devo preparare, allora preparalo, metto come lo vuoi, per il cappa, per il chembo, a 8 e a 8, meglio l'ha fatto, spiralato, nuovo, perfetto. E io, che raggio, 9 e 10. Morbido è, Antonio, non l'ho manco visto, era dentro la busta, morbido è. No, abbastanza, dovrebbe stare qua, quindi non è un problema. E sono tornato con l'antenna grande. E ci sarebbe stato una di quelle radio, prove che agisce lo squarcine in AM, va bene. Quello ci agisce. È altro quello da fare. Antonio l'affare gliel'ho fatto fare, adesso bisogna vedere, c'era 50 euro più del 140, però ce ne veniva comparato. Ho capito. E ce l'avevo 44, 50 euro più del 140, l'ho venduto. Ma 44 difetta, no, non i voglio, meglio 4,30. Che difetta, se lo prendi revisionato come questo di dura 7 anni, 10 anni, non è che difettano quelli che non sono mai stati revisionati. Poi c'è da dire anche che sono radio vecchie, capito? Ed è un casino. Vabbè, comunque. Adesso vediamo, da fa un po' di conteggi. Fino a quando non chiedo col dentista non so cosa dirti là. Io devo dare 3.500 euro. Io ho già fatto un conto per questa giurata, boh. 7.500 gli ho dato già. Sì, allora già sia buon punto, già va bene. Chiamo, ma già me ne capitano sempre lui, adesso un paio di affari li ho fatti fare. Se mi capita ti avviso e poi vediamo. Ma se il vostro assegno. Il paese non può scegliere, non può cambiare segni. Ma fu un segno, mi sono compreso. No, piattare segni, un assegno è vero. Poi ti porto un segno, me lo dai. Che problema c'è? Non ce n'è problema. Non ce n'è problema, l'ho già fatto, capito? Io mi fido delle persone, non sono di quelli differenti. sei un figlio di una persona e tu mi dici tra un mese, perfetto, tra un mese io non ho problemi, la radio te la posso anche dare. No, guarda, io sono di parola, a meno che, se tu sei sicuro però, perché se non sono sicuro non le faccio, capito? Non c'è sicuri di quello che si dice. E allora, se poi c'è già la mano, ancora meglio. Vabbè, ma infatti sto dicendo, se uno è sicuro che sa il fatto suo, non c'è problema. Io ho sempre massima fiducia nelle persone. L'ho già fatto, ti ho detto, quindi. Perciò non è la roba mia, però si fidano di me. Anche questa non è la roba mia, però. Lo posso ottenere e vendere quanto mi pare piace, non c'è problema, capito? Avanti anche tu. Sto parlando con Sara, non ho seguito molto bene il discorso, capito? Ti vedi gente che vuole roba gratis, c'è tu, è buco. Ah, sì, è passato un dannino. Ciao, voi così siete innanzi. Punto, non è che la cosa deve cambiare, no? Non c'è neanche da discutere, no, molto più di tanto. Se io ti faccio un prezzo e tu mi dici, no, non ci parlo più io con te non parlo più. Io ti ho detto quel prezzo e basta, se la vuoi è bene così, se non la vuoi lascia stare lì. Non manda pane. Ma infatti così proprio, è detto bene. E dire ti tolgo questo, ti faccio quest'altro, ma anche perché poi quando vanno gli altri, a me mani sempre di dare la vacca in culo, e io la giudicare la roba, magari la giudicare la roba è buio, non è di tu, capito? Se il pane costa 2 al chilo, 2 al chilo lo paghi, non è da lì, no, ma io lo compro da Claudio a 1 euro, e vai da Claudio a comprare, perché non la fotta a me. Vabbè, chiudiamo il discorso, non la fotti nulla. Cosa vi c'è Antonio? Niente, che entrate in casa, Il pezzo è quello e basta, il discorso è quello. Non puoi andare in basso come è successo a me. Quando volevo prendere un apparecchio da 150 euro mi erano stato 140, quindi a un certo punto no, ho rifiutato, il discorso è quello lì. Si parla così e basta. Uno dice quello, tutto, non basta. Il discorso è quello lì. Non ho capito, ma chi si è detto esatto? Ma dove già vai? Basta, non ho capito, dimmi. Quanto ti sento saturo? Saturo? Se sono quello... Quanto è 2009, insomma? Con una... Aspetta qua. Ah, vabbè, sono con la... Con cosa, insomma? Con quella rossa. Con la... Aspetta, aspetta, con l'altro, là. Alla canola pesca. Secondo... 2 secondi, accendo l'altra e togliamo la saturazione, aspetta 2 secondi, un po', 1, 2, 3. Ecco, va bene così? Ehi, va bene, avanti lo riprendi, dai, io vi lascio parlare un po' di tempo, sentiamo alle prossime. Ciao Antonio, ciao Antonio e ciao Luca, e questa è la mandorla, l'altra invece è come si chiama? La canola a pesca. Quindi mi senti pensato con il 2009. No, questa è superiore. Ah, hai visto, quindi siamo a posto. Se non mi ricordo male, allora, così mi sembra che c'è l'eco, o sbaglio? Sì, va bene, non c'è così che va bene. Ok, no. È perfetta come il Saturnecco. 50 euro, cazzo. Mi potevo la vita di ieri sera. Stava fuori di testa sogna. Seriamo. Beh, riprendete ancora, quindi fa girare tu, io chiudo, scendiamo, ciao ciao. È che lo voglio bene, se no l'avrei portato in stazione 2 a vedere se pompa questa cosa. Sarebbe solo più di sì. Ciao Claudio, buonanotte. Ciao ciao, dai, lascialo lì, se lei tanto farà bravo, lascialo lì, magari muovi muovi, lascialo lì e boh, usatelo così che va benissimo alla grande, ciao. No, non è porto su, ma poi gabbo sì. Appunto, lascialo lì che va bene. Ciao, una voce ha già regato lì su, a valvole, a vedere, Gesù Cristo mio. Certo, pompava anch'io. Sì, ho voglia. Più scaldava e più spingeva, più scaldava e più spingeva. Più la mazza che te ne impari, ha detto. Non ti preoccupare, lasciami il tempo, poi ti faccio vedere che non c'è bisogno, più scaldava e più pompava. Dammi 2 mesi di tempo e ti faccio vedere. Ah, bravo, Antone, che sono un buco, non volevo io, va via. A me i giocattoli lo sai che mi piacciono. Tranquillo, sai che io, me lo sa Claudio. Non ti preoccupare, se vuoi che farò 6 metri, e la seconda faccio schiaffa. E più di uno. Sì, non è solo a sollevare rubare, no? Eppure aver potenza sotto, quella lì vince. Guarda che già vuoi più fu 2001 nel mio capatore io, me. Quella bavo già lo sai anche tu. E la clave per vedere, facevamo il muro di Berlino, parlavamo solamente noi, la zona del centro storico, la morta, me, hai capito? C'era il muro di Berlino, c'era, e solo io chiedi tu, se non ci credi. Chiappa, vabbè, penso sì, se mi ha fatto il muro di Berlino l'abbia fatto pure io il muro di Berlino, non ti preoccupare. Allora sì che l'abbia abbigliato, un bedo 1000-2000 watt. Avevo un muro in Berlino o altro. Vabbè, ti sembra così adesso, ma comunque sia, io usavo 600, Claudio usava 1200, quindi figurati tu, Alghero, non riuscivo a parlare con l'altro, mi sembrava 500-600 metri di vicinanza, figurati tu. Quindi figurati tu, è una cosa allucinante, era. Ma io ti parlo di 7-8 anni fa, 10 anni fa, è una cosa differente. Il discorso è quello. Era una cosa differente, io avevo 6 metri di palo, Claudio portava da casa sua, parlavo solamente io e lui, eravamo tutti i giorni pompando, io e lui, tutti i giorni. La verità. E l'Enel ringrazia. L'Enel, vabbè, pagavamo poco, quindi a un certo punto, scusa, cosa dovevi fare? Era grandissima macchina, mi e si incazza un conto. Ma te lo sto dicendo. Gli unici forti che eravamo qua a Sassari, eravamo io e Claudio. Poi c'era Walter, dopodiché c'era, come si dice, Angelo Delfino e Gianni Lunessore. Basta, non c'erano altri, eravamo solo noi e basta, non c'era nessun altro. Altri tempi erano. Altri tempi, bravo, ci sei arrivato. Tutti pompando, ma tutti veramente pompando, chi con certo, c'è la parte. Adesso mi sono fatto una bella routine, 300, e dopodiché il resto. Già se lo dico da Claudio, che siamo andati una mattina sotto a fare a contare, verso le 8:30-9 del mattino siamo stati tutta la notte svegli a sventiare, e capito? Fino alle 9 mattina a beci il caffè, la massa caffè, figurati tu. Vabbè, cacano in manco qui la burro, Antonio, ci puoi andare, va, Beh, detto questo, io vi saluto tutti. Ciao Lucy, in ascolto, mi ti go qua che sono qua a pezzi. Però ti amo svegliare molto presto. Ciao ciao a tutti. E ya, ciao, ci sentiamo alle prossime, stai bene. Adesso fa poco, guarda. Appena inizio a servire il capo a casa di Giovanna, sentirai Giovanna a casa sua. Così almeno sentirai anche a lei. Ciao, paga, paga, fai bene. Ok, ciao ciao, buonanotte. Ehi, ciao Antonio, c'è Pompone, anch'io c'ho sonno, dai. Guardi male, bruci, mi stavo bruciando. A domani, ciao, buonanotte. Ciao, ciao, buonanotte. Ciao a tutti e due, buonanotte. Buon tutto. A domani, statemi bene.